Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Quando una grande catastrofe colpisce una città, non sono distrutte solo case e infrastrutture, anche l'intero tessuto sociale può essere compromesso. E così il rischio è che la città muoia, come è accaduto in passato a tante città anche dalla storia gloriosa. Questo rischio oggi è concreto per L'Aquila, che come ben sapete è stata praticamente distrutta dal recente terremoto, e per Ishinomaki, città giapponese non lontana da Fukushima, dove è stato lo tsunami a spazzare via tutto. In questi luoghi è urgente fare qualcosa per far ripartire delle attività, delle relazioni sociali. Ho il rischio che a un certo punto, anche una volta, diciamo così, rimesse in sesto le ossa e guarite le ferite, l'encefalogramma rimanga piatto. Federico Pedrocchi ci parla allora di due progetti che hanno proprio questo scopo: evitare, se così possiamo dire, lo stato vegetativo. Sentiamo. Cesare Castelli, buonasera. Buonasera. Allora, lei presiede l'associazione Milano Makers. Riusciamo in 10 secondi a dare una definizione dei makers? Allora, l'associazione Milano Makers riunisce i produttori indipendenti, quegli autoproduttori che producono appunto manufatti senza transitare dalle industrie tradizionali, ma andando direttamente sul mercato con le loro realizzazioni. E questo fa sì che siano più facilmente collegati a storie locali, storie territoriali, anche questo, fanno molto altro. Certamente. Sottolineo questo aspetto perché voi avete presentato a Milano un progetto, un'azione che produce poi degli oggetti che arriva dal Giappone, dalla zona critica di Fukushima, da quelle parti lì. Esattamente, è una città, Ishinomaki, di 150.000 abitanti, che è vicina a Fukushima e che è stata purtroppo anche lei completamente rasa al suolo dallo tsunami di 2 anni fa. Ecco, io ho visto delle cose che hanno fatto, sono delle panche per stare in una piazza, ho visto delle borse, ho visto altri oggetti. Qual è il senso di tutto ciò? È il risultato di una sorta di terapia, di una vera e propria terapia di gruppo attuata per ridare da una parte speranza a questa popolazione e quindi dare un senso alla loro vita, perché in questo momento non possono fare nulla in quanto è veramente stato distrutto tutto, e dall'altra parte anche per elaborare il lutto di questa tragedia. E quindi degli psicologi hanno chiamato alcuni designer giapponesi che hanno progettato per loro oggetti facili da realizzare con materiale reperibili nei negozi specializzati, diciamo, giapponesi, che però avessero una funzione e anche una trasportabilità, visto che ancora oggi sono tutti ospitati nei container. Quindi qualcosa che diventa un oggetto del luogo, un luogo che però ha bisogno di una ricostruzione totale, però crea anche un ambiente di lavoro che vuol dire recuperare socialità. Certamente, infatti per esempio nella parte tessile sono un gruppo di mamme che vivono e lavorano nei container e in gruppo realizzano queste borse, tra l'altro molto belle, disegnate da loro, da alcune fra le più note giovani, diciamo, tendenze del fashion design giapponese. Quindi insomma, fare design o progettazione, fare cose smart anche nelle situazioni dove essere smart vuol dire risolvere grossi problemi come questo. Grazie Castelli, buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Da lontano Giappone, dove c'è stata una situazione e c'è ancora molto difficile, purtroppo arriviamo in Italia, ne abbiamo un'altra qua altrettanto difficile. Sono in linea con Alfredo Moroni. Buonasera. Buonasera. Assessore all'Aquila. Lei è assessore alla... Io sono assessore anche alla Smart City. Anche alla Smart City. E quindi siamo nella trasmissione giusta. Allora, anche lì all'Aquila il problema è di fare degli interventi in una logica, certo, Smart City, ma perché? Perché insomma dovete ricostruire una socialità che non c'è più. Questo è uno degli obiettivi principali, anche perché noi a seguito del sisma abbiamo avuto sostanzialmente una città distrutta e dispersa, perché con la realizzazione di alloggi in 19 aree differenti che hanno allungato moltissimo la città certo. E dove sono stati appunto tra virgolette deportati i cosiddetti terremotati, insomma gente che aveva avuto distrutta la casa, e molti sono ancora lì, è chiaro che abbiamo avuto una socialità completamente nuova, mescolanza, perdita di abitudini, perdita di rapporti, perdita di identità. Allora, bilancio partecipato e nuove tecnologie, sistemi nuovi di relazione fra le persone. Bilancio partecipato è quella cosa che in vari comuni del mondo, non tantissimi direi, significa chiamare la popolazione a partecipare alla costruzione di una serie di investimenti che riguardano il loro futuro, no? Voi avete pensato di mettere insieme questa operazione e nuove tecnologie, in che modo? Ma tanto c'era appunto questa necessità di ricreare una di ridurre le distanze tra l'amministrazione ed il cittadino, quelle tecnologie che consentono appunto la eliminazione o la riduzione di questa cesura che c'è tra la popolazione, tra la nostra comunità e l'amministrazione stessa. Quindi un mix di incontri live dal vivo in cui la gente, però essendo molto disperse, continuità di questi incontri anche attraverso strumenti online. Poi c'è l'altro concetto che è quello ancora più importante. Noi il 18 maggio, adesso da un'anteprima, faremo una giornata di lavori su che cosa sta facendo il Comune dell'Aquila sulla Smart City. La cosa importante sarà poi la fase di controllo della realizzazione di ciò che è stato votato con la partecipazione, certo, perché queste esperienze poi non vanno disperse e questo è un contenuto assolutamente forte. Anche per questa sera abbiamo concluso. A voi tutti una buona serata, appuntamento a domani.